in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, 7:17 minuti, questa è la prima notizia di oggi, è tornata l'ora solare, quindi sono le 7:17, i quotidiani oggi in edicola ce lo ricordano, molti già con un piccolo strillo, una piccola segnalazione in prima pagina, regolate gli orologi, regoliamo di nuovo i nostri orologi. La politica occupa grande spazio nei titoli principali di molti quotidiani, i tormenti, per così dire, del centrodestra, nonché quelli del centro-sinistra, sono protagonisti. Ma scegliamo invece di partire da una dichiarazione resa ieri dal ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, che ha parlato di privatizzazioni, come sapete un tema che si rincorre da anni, da decenni potremmo dire. Ieri il ministro ha detto: potremmo anche cedere la RAI, anche se un canale resterebbe pubblico, e così sceglie di titolare nella sua apertura, nel suo titolo principale, Il Messaggero, il quotidiano di Roma, che dice: il tesoro, anche la RAI, ai privati. Saccomanni, la TV è sotto esame, una quota può finire sul mercato, quindi una privatizzazione parziale. Patrimoniale esclusa, l'imposta patrimoniale, l'imposta sui patrimoni, di cui pure si è tornati a parlare, a rilanciare la questione, era stato anche un editoriale pubblicato proprio dal Sole 24 Ore. Ebbene, Saccomanni esclude l'introduzione di una patrimoniale. E poi, sempre per quanto riguarda le dismissioni, quindi iniziative del governo per fare cassa, scrive il Messaggero: dismissioni, il governo mette in vendita gli immobili pubblici, nel piano ci sono 1000 caserme. Nel richiamo di prima pagina leggiamo appunto che verrà varato un piano entro l'anno sia per le dismissioni in campo immobiliare sia per le partecipazioni azionarie dello Stato, e sono sotto esame tutte le ipotesi, questa la dichiarazione di Saccomanni, pure la RAI. La TV di Stato va quindi ad aggiungersi a Eni, Terna, Snam, Sace, Finmeccanica e altre importanti realtà. In vendita agli immobili pubblici ci sono anche appunto 1000 caserme, come vi dicevo. Sempre sul Messaggero, le altre notizie che sono in evidenza: naturalmente il Datagate, con queste rivelazioni sul telefonino di Angela Merkel, le conversazioni di Angela Merkel che sarebbero state spiate già da più di 10 anni, dal 2002. Datagate a Roma, la centrale dello spionaggio americano, titola il Messaggero, che ricorda appunto come il settimanale Der Spiegel abbia rivelato, oltre a questo centro di ascolto di Roma, anche un'esistenza di un centro di ascolto a Berlino, quello che appunto avrebbe intercettato il cellulare della cancelliera Merkel almeno fino a pochi giorni prima della visita di Barack Obama in Germania nel giugno del 2013, questo a partire dal 2002. Le scuse del presidente degli Stati Uniti, che ha detto: non lo sapevo, altrimenti li avrei fermati. Questo il titolo principale e la foto e il richiamo principale sulla prima pagina del Messaggero, che poi dà spazio, come vi dicevo, all'altro tema in evidenza sui giornali di oggi, la politica. Scissione PDL, ministri divisi, Alfano: ma io non la voglio. C'è questo confronto, come avete letto, come avete ascoltato dalla radio, come avete letto sui giornali, tra i lealisti cosiddetti e i governativi, e un confronto che rischia appunto di finire in una scissione. Naturalmente su tutto pesa il voto relativo alla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Per riassumere un po' la tematica, le tematiche politiche che ci sono in questi giorni, vi leggo qualche passaggio dell'editoriale proprio del Messaggero di Alessandro Campi, perché individua quella che sembra diventare la data clou per la svolta della politica italiana. Qual è questa data clou? È l'8 di dicembre, data peraltro, come dire, nota per altre ricorrenze, per ricorrenze di tipo religioso. Scrive Campi sul Messaggero: il prossimo 8 dicembre si svolgeranno le primarie del PD, che sondaggi alla mano dovrebbero consacrare Matteo Renzi nel ruolo di segretario. Ma la stessa data è stata scelta per la riunione del Consiglio nazionale del PDL, che dovrà ratificare il definitivo passaggio a Forza Italia. In quella sede si capirà chi comanda in quel partito, Silvio Berlusconi o Angelino Alfano, e si capirà anche se nascerà una forza politica diretta concorrente di quella del Cavaliere, la scissione appunto all'interno della destra. Nell'immaginario degli italiani, per quanto ormai secolarizzato, l'8 dicembre è legato alla festa dell'Immacolata Concezione. Chissà, scrive Campi, che non serva all'Italia una materna protezione celeste per ritrovare un cammino politico finalmente più ordinato. Quel giorno fatidico potrebbe infatti accadere, per un miracolo ispirato dall'alto, che due forze politiche sino ad oggi lacerate e divise in fazioni ritrovino contemporaneamente non solo un minimo di unità e compattezza intorno a una nuova leadership, ma anche un rinnovato slancio politico e progettuale, un nuovo senso della propria missione e del proprio ruolo. Se così fosse, sarebbe una data da appuntare sul calendario repubblicano. Più oltre, nell'editoriale, sempre sul Messaggero, editoriale firmato da Alessandro Campi, c'è anche un passaggio dedicato al Presidente della Repubblica, che dice: nelle ultime settimane molti osservatori e protagonisti della vita pubblica si sono lamentati dell'attivismo della Presidenza della Repubblica e del fatto che la politica italiana sia stata come commissariata da quest'ultima. Ma costoro dovrebbero prima chiedersi quale sia lo stato reale del nostro sistema politico, prima di giudicare come prevaricazione volontaria quella che appare invece come un'azione di necessaria supplenza istituzionale. Scoprirebbero, ad esempio, che tutti i partiti nominalmente presenti sulla scena sono ormai sigle, strutture personalistiche, coacervi di potentati economici e gruppi di pressione, raggruppamenti parlamentari senza grandi radici nella società, movimenti di protesta eterodiretti. Insomma, tutto sono meno che forze storiche in grado di innervare la democrazia italiana e di darle una direzione di marcia. Questo si legge appunto nell'editoriale di Alessandro Campi, che riassume in questa data dell'8 di dicembre, appunto, in cui si svolgeranno, sono previste sia la primaria del PD sia la riunione del Consiglio nazionale del PDL, che dovrà appunto ratificare il passaggio a Forza Italia, data che sembra diventare lo snodo decisivo per lo sviluppo dei due maggiori partiti, chiedo scusa, della politica italiana. Vediamo qualche altro titolo. Sul Giorno c'è la stessa scelta del Messaggero, in vendita anche la Rai. Saccomanni apre, stiamo valutando, ma una rete resterebbe pubblica. In ballo anche l'Eni e, per il demanio, la difesa cede immobili ai comuni. Grande foto centrale sul Messaggero per una delle notizie che più hanno colpito i giornalisti ieri, nella giornata di ieri, quella appunto della prevalenza dei cuochi sugli operai. Si tratta di una serie di dati Istat che sono stati diffusi ieri. C'è un'iscrizione, una quantità di iscrizioni doppie appunto alle scuole alberghiere rispetto alle professionali, agli istituti professionali, anche forse per effetto delle tante trasmissioni televisive dedicate appunto agli chef, che quindi hanno mosso in qualche modo le aspirazioni dei più giovani. Naturalmente c'è poi da porsi, come sempre, il problema su quanta sarà la capacità attrattiva, la capacità del nostro lavoro, delle nostre imprese, di assorbire questo tipo di offerta. Sempre sul Messaggero, spazio anche alle questioni interne invece al Partito Democratico. Renzi avverte il Partito Democratico: niente inciuci sul proporzionale. E la chiusura sul proporzionale è il titolo principale di Repubblica. Basta con il proporzionale. L'attacco di Renzi, il sindaco La Leopolda: se vinco voglio gente nuova. Scontro con Cuperlo sui simboli PD. E Epifani, che ha detto: non c'è solo Matteo, nel senso Matteo Renzi. Sempre nel titolo principale di Repubblica, che unisce anche le questioni relative al PDL, Berlusconi che apre a Marina: possiamo candidarla, non esclude appunto una discesa in campo della figlia Marina. Ancora da Repubblica, il Datagate con il centro della CIA anche a Roma e con la cancelliera Merkel spiata già dal 2002. E poi la dichiarazione di Saccomanni: siamo pronti a privatizzare la RAI. Questo dalla prima pagina di Repubblica. La Stampa in qualche modo inverte le proporzioni che vi ho appena descritto per il quotidiano fondato da Scalfari e sceglie come titolo più importante quello dedicato al Datagate, cioè appunto a questa attività di spionaggio a cui sono dedicati gli servizi segreti americani, appunto, anche nei confronti dei leader europei. NSA, una centrale a Roma, la Merkel spiata dal 2002, è il titolo che si legge con maggiore evidenza sul quotidiano torinese. Obama al telefono con la cancelliera dice: "Non sapevo, li avrei fermati". A fianco di questo titolo, che è il più importante sulla stampa di oggi, la sfida di Renzi: il mio PD dirà no al proporzionale. E poi le altre questioni che ieri hanno caratterizzato la giornata politica: l'Associazione Nazionale Magistrati, che si è schierata sulla questione della incandidabilità, ha parlato di una questione etica, e poi Quagliariello, quindi le questioni del centrodestra. Berlusconi decida se continuare a sostenere il governo. In 20 secondi una rapida descrizione della prima pagina del Corriere della Sera, prima di fermarci per dare le informazioni meteorologiche. Piano per il rientro dei capitali, sanzioni più leggere per chi autodenuncia i fondi all'estero. È una norma di cui in realtà si parla da tempo sul Sole 24 Ore. Abbiamo più volte ricordato queste iniziative per la cosiddetta voluntary disclosure, cioè il rientro volontario dei capitali dall'estero senza particolari sanzioni. Questa norma, scrive oggi il Corriere, dovrebbe trovare una definizione nel testo della DDL stabilità. Ma ora noi ci fermiamo un istante e ascoltiamo le informazioni meteo. In primo piano. Bentornati, bentornati e ancora buona domenica da Mauro Meazza, buona domenica anche a Roberto Scaltritti che questa mattina mi assiste in regia. Stavamo descrivendo la prima pagina del Corriere della Sera, prima di fermarci per ascoltare le informazioni sul meteo. Allora, proseguiamo in questa descrizione con il quotidiano di Via Solferino. Vi dicevo, in evidenza questa ipotesi di una norma specifica per agevolare il rientro dei capitali, rientro di cui si parla ormai da parecchie settimane, un rientro che sarebbe su base volontaria, non quindi esattamente lo scudo fiscale di una decina d'anni fa, iniziato una decina d'anni fa, appunto, in tutt'altre circostanze. Qui si tratterebbe di una sorta di norma stabile per il rientro volontario, una norma che dovrebbe essere codificata nel disegno di legge di stabilità, lo segnala Antonella Baccaro sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sempre in prima pagina sul Corriere della Sera il richiamo per il Datagate, questo scandalo appunto relativo alle attività di spionaggio americane nei confronti dei leader mondiali. E poi una grande foto centrale per un'inchiesta, per un articolo che sta poi nelle pagine interne, la Sacra Rota, Pinto e il Monsignore dei divorzi, tra virgolette, dei divorzi in chiesa. La Sacra Rota e le 1500 cause l'anno per la nullità delle nozze. In basso, sulla prima pagina del Corriere della Sera, un lavoro di Luca Mastrantonio, film all'Italia, ma quante carte? Si riferisce a questa iniziativa, appunto, del regista Salvatores, regista e premio Oscar Salvatores, che appunto ieri ha invitato a filmare le proprie attività quotidiane o meno quotidiane e a inviarle per costruire un film che si chiamerà Italy in a Day, un giorno da italiani. Qual è l'appunto di Luca Mastrantonio su questa iniziativa? Che bisogna ricordarsi però, per tutti questi filmmaker, di inviare le cosiddette liberatorie, cioè quelle carte che consentono poi l'utilizzo delle persone riprese, l'utilizzo, il loro utilizzo in pubblico. Questo fa sì che, appunto, come si legge nell'articolo, di quanta carta stiamo parlando: tra la liberatoria soggetti ripresi, la liberatoria per i soggetti minori, la liberatoria per location, il modello di avviso delle riprese per chi volesse riprendere, ad esempio, il pubblico di uno spettacolo, le pagine sono 15. E poi nelle liberatorie si fa riferimento alla presa visione del codice del gruppo Rai, di cui è attivo il link nella versione digitale, ovviamente non su quella cartacea, e sono altre 26 pagine. Quindi una burocrazia che fa sì che il titolo di questo lavoro di Luca Mastrantonio sia "L'Italia in un giorno di ordinaria burocrazia, raccontate il paese, ma serve la liberatoria". Questa la indicazione, appunto, che traiamo dal Corriere della Sera. Stiamo su questioni economiche perché il Sole 24 Ore ci avverte in prima pagina con il titolo più importante, conti correnti, tutti i dati sotto il controllo del fisco. Che succede? Entro la fine di questo mese, entro la fine di ottobre, quindi di fatto giovedì prossimo, le banche devono trasmettere all'anagrafe tributaria importi e movimenti. Come sapete, il fisco dispone già dell'esistenza di informazioni sull'esistenza dei nostri conti correnti. A questo punto l'anagrafe dei conti correnti però si arricchisce notevolmente e va a comprendere una serie di voci, appunto, anche sui saldi contabili alla fine dell'anno precedente, alla data di fine anno, l'importo totale degli accrediti che sono stati effettuati e degli addebiti che sono stati effettuati. In pagina 3, a corredare l'articolo di Marco Bellinazzo e quello di Davide Rotondo, ci sono tutte le descrizioni dei dati che verranno appunto inviati dalle banche all'anagrafe dei conti, relativi ai conti correnti, ma anche ai conti di deposito, ai conti a risparmio e poi ancora alle operazioni a straconto, ai derivati, le carte di credito, le imprese di assicurazione. Insomma, il fisco verrà così a disporre di una mole di dati imponente, una mole che, scrive Bellinazzo, metterà a disposizione dell'erario il database più ricco e completo al mondo. Questo dovrebbe rappresentare anche un punto di svolta per quanto riguarda, come sappiamo, la lotta all'evasione. Ma un'altra notizia correda, questa appunto dell'attività del fisco sui conti correnti, che trovate descritta anche nelle sue informazioni operative sul Sole 24 Ore di oggi, la notizia è che sul risparmio complessivamente pesano 13 miliardi di imposte che sono più che raddoppiate nel giro di 2 anni. Il lavoro fatto da Marco Mobili e Giovanni Parente ricostruisce i vari prelievi tra imposte di bollo, imposte sui redditi di capitale, altre entrate, imposte su interessi e premi di obbligazioni e così via, e mostra appunto, dati alla mano, che si è passati da un prelievo complessivo che era di partenza sotto i 5 miliardi a un prelievo atteso per il 2013 che sarà superiore ai 13 miliardi. Quindi ben più che raddoppiate, scrivono Mobili e Parente, le imposte che sono in questo momento gravanti sui nostri conti correnti, sui nostri rapporti finanziari. E poi un dettaglio, ma che tanto dettaglio non è, dalla Tobin Tax, cioè la tassa sugli investimenti, al momento risultano incassati appena 200 milioni, non moltissimo rispetto alle aspettative anche importanti che avevano accompagnato l'introduzione di questa tassa, introduzione che peraltro poi dovrà accompagnarsi, vedremo se questo accadrà, a una imposizione di tipo più europeo, perché noi siamo stati tra i primi paesi a intervenire con questo tipo di prelievo, altri ancora sono poi intervenuti dopo di noi. In futuro si vedrà se la stessa Unione Europea farà di questa imposta sugli investimenti in particolare quelli più speculativi, un prelievo generalizzato per tutti i cittadini dell'Unione Europea. Vi do un'altra segnalazione dal Sole 24 Ore, delle pagine interne, un lavoro di Patrizia Maciocchi sugli avvocati, che riguarda gli avvocati. Vi dicevo che su tutti i giornali ha trovato spazio questa notizia dei 6 milioni di senza lavoro in Italia. L'emergenza occupazione è non da ieri purtroppo in una condizione sempre più critica, e 6 milioni a caccia di un posto, ad esempio l'articolo di Giorgio Pogliotti sul Sole 24 Ore di oggi, e poi questa attività, questa attenzione dei giovani più per, diciamo, le scuole alberghiere che per le professionali. Per ogni operaio avremo due cuochi, riferisce Laura Cavestri, perché gli studenti degli istituti professionali industriali crollano, sono la metà di quelli che hanno scelto invece l'enogastronomia. Ecco, il lavoro è un'emergenza, è un problema specialmente per i più giovani, e tra i giovani che hanno difficoltà, anche se un lavoro ce l'avrebbero, ci sono appunto i giovani avvocati. Ieri al congresso di Palermo c'è stata una protesta vera e propria dei legali sotto i 45 anni perché sono sempre di più quelli che hanno un reddito così basso da non riuscire a pagare l'iscrizione alla cassa previdenziale. Gli avvocati, come sapete, non pagano i contributi all'INPS, bensì alla loro cassa di categoria. Servono società, chiedono i giovani avvocati, vogliamo operare in società, ma lo strumento è precluso da una riforma della professione che peraltro è stata varata da poco più di un anno. La categoria quindi sembra proprio generazionalmente spaccata, come riferisce Patrizia Maciocchi, tra chi appunto riesce ad avere un reddito dignitoso, se non anche importante, e sono però per lo più gli avvocati più anziani, insomma, o comunque sopra i 45 anni, e chi invece non riesce ad avviare un'attività che gli garantisca almeno un reddito sufficiente a sopravvivere. La questione degli avvocati sulle pagine di Norme e Tributi oggi sul Sole 24 Ore in edicola. Vediamo qualche altro giornale. Ad esempio sul Secolo XIX, che ha una composizione di prima pagina decisamente diversa, perché alcune notizie di cronaca si sono in qualche modo imposte all'attenzione della redazione del quotidiano genovese. Innanzitutto il ritrovamento delle due vittime del nubifragio di 5 giorni fa, dimenticati 5 giorni nel torrente, è il titolo che accompagna la foto sul Secolo XIX in evidenza. E poi le questioni che stanno tormentando la Cassa di Risparmio di Genova, la Carige, il super testimone che dice: Carige truffa case. Il genovese Montani è stato intanto nominato nuovo amministratore delegato della banca. Alle questioni Carige sono dedicate poi le pagine 2 e 3. Ci sono accuse agli ex manager che appunto avrebbero spogliato la cassa del patrimonio immobiliare. Un imprenditore, riferisce Matteo Indice, nelle pagine interne del Secolo XIX, ha inviato un dossier alla finanza, si dice pronto a svelare il sistema. Questo compone una prima pagina assolutamente diversa, diciamo, da altre prime pagine dei giornali, che sono più dedicate, come vi dicevo, alle questioni relative alla politica, ai tormenti del centrodestra, alla preparazione delle primarie per il Partito Democratico, oppure alle questioni finanziarie, appunto alle dismissioni o, come abbiamo visto sul Sole 24 Ore, ai controlli sui conti correnti che dalla fine del mese, cioè tra pochi giorni, potranno disporre di una mole di dati mai resa disponibile prima. E ora fermiamoci un istante e ascoltiamo le informazioni sul traffico. In primo piano. E ancora buona domenica da Mauro Meazza. Vi ricordo, sono le 7 e 46 minuti, quasi 47 minuti, ve lo ricordo perché siamo tornati all'ora solare, quindi questa notte le lancette sono tornate indietro di un'ora. Dobbiamo tutti un po' ricordarci di regolare i nostri orologi. Mentre ascoltavo le informazioni sul traffico, mi sono ricordato di aver visto questa mattina su alcuni giornali qualche notizia appunto legata alle questioni automobilistiche. La prima notizia viene dall'estero, dall'Arabia Saudita. Probabilmente avete già sentito parlare di questa protesta delle donne saudite che non possono guidare un'autovettura, e hanno diverse attività di mobilitazione per protestare contro questo divieto, e di queste attività riferisce Francesca Cafferri su Repubblica: depistaggi e autogiocattolo, lo show delle saudite al volante. Mai così tante contro il divieto di guida. Sul web ci sono foto e video. Tra l'altro era prevista appunto una specie di mobilitazione delle donne automobiliste saudite, che poi hanno, per depistare appunto i controlli e i fermi che la polizia aveva già annunciato contro questa iniziativa, avevano comunicato che la manifestazione sarebbe stata rinviata al 31 novembre. Come noto, però, il 31 novembre è una data che non esiste in calendario e serviva solo un po' a confondere le idee. Ci sono state quindi queste attività di protesta, ci sono state anche dei fermi. Le auto, riferisce Francesca Cafferri, sono state fermate, sono state poi riconsegnate ai familiari maschi. Questo succede in Arabia Saudita, dove appunto le donne non possono guidare. Questa iniziativa di opposizione al divieto va avanti dal 1990, ci ricorda Repubblica, perché è nel 90 che c'è stata la prima manifestazione contro il divieto di guidare. In quel caso 47 donne che si erano messe alla guida a Riyadh erano state tutte arrestate e indicate come prostitute per il fatto appunto di guidare un'auto. Questo in Arabia Saudita. Invece a Roma sul Messaggero, riferisce Mario Aiello, il posto auto viene non pagato o pagato malvolentieri dagli onorevoli. Il posto auto non lo pago, i deputati fanno i portoghesi. Ci riferisce Mario Aiello che c'è uno spazio appunto per parcheggiare a disposizione dei deputati, uno spazio che ha delle tariffe agevolate, 100 euro al mese per una piazzola riservata nell'area, pardon, riservata della Camera. E se uno volesse andare in un garage della stessa zona, spenderebbe 550 euro appunto al mese per poter parcheggiare in uno dei parcheggi della zona centrale. Il problema è che gli spazi di parcheggio non sono sufficienti e poi che in qualche modo c'è così, un vizietto che sembra ricorrente e una volta tanto trasversale, cioè su cui non ci sono particolari distinzioni tra maggioranze, minoranze, centri-destra o sinistra, nel non pagare appunto l'utilizzo di queste piazzole. Va avanti così da un anno, scrive ad esempio Aiello, tra l'altro c'è stata anche una protesta dell'ex capogruppo dei 5 Stelle della Lombardi che ha scritto una lettera alla Presidente della Camera dicendo che non solo non vengono riscosse le quote per i parcheggi, ma poi si sta pure generando un vero e proprio afflusso indiscriminato di vetture a causa, pare, di alcuni gruppi che starebbero facendo ostruzionismo perché criticano e non condividono i criteri di attribuzione dei posti auto. I posti sono appunto meno del previsto, quindi vengono assegnati proporzionalmente sulla base della rappresentanza, la quantità della rappresentanza in Parlamento. Quindi, ad esempio, i grillini hanno 12 posti, però ci sarebbero altri gruppi che spesso si mettono in questi posti, piazzano le utilitarie oppure anche le stesse auto blu nei posti invece che sarebbero riservati all'altro gruppo. Questo leggiamo sul Messaggero, la notizia più importante al di là della disponibilità dei parcheggi, che è un problema che tormenta non solo quindi noi comuni cittadini, ma anche i deputati. Ecco, al di là della poca disponibilità dei parcheggi c'è anche però questa deprecabile abitudine di non pagare il posto auto. Ce lo riferisce appunto il Messaggero, Mario Aiello sul Messaggero di oggi. Allora, vita quotidiana di tutti noi che appunto cerchiamo un parcheggio, abitualmente anche lo paghiamo. La svolta alle poste, arriva il semaforo, elimina code. Mai lunedì alle 10, meglio se venite giovedì dopo le 14. Lo scrive Repubblica in un lavoro di Fabio Tonacci nelle pagine interne. È un progetto che è partito da poco, per adesso in 30 città, c'è un calendario che segnala ai cittadini quali giorni è meglio evitare. E questo avrebbe avuto un grosso successo perché le persone che dovevano recarsi alla posta, utilizzando questo calendario, hanno quindi potuto individuare i momenti in cui ci sarebbe stato presumibilmente meno coda, meno afflusso, e quindi distribuire meglio il lavoro di tutti, compreso quello naturalmente degli impiegati alle poste. Il direttore operativo degli uffici riferisce che le attese si sono ridotte subito del 15% perché se viene informata la gente cambia abitudini. Questo semaforo è in sperimentazione, scrive Tonacci, dal 1° ottobre scorso in una trentina di uffici postali di medie dimensioni da nord a sud e promette bene. Stando ai primi dati, è riuscito a tagliare i tempi di attesa tra il 10 e il 15%. Quindi speriamo, visti questi buoni risultati, che venga esteso anche a tutte le città per consentirci un migliore utilizzo delle poste. Abbiamo veramente pochissimi secondi, allora vi segnalo un articolo molto divertente di Giacomo Poretti, di Aldo Giovanni e Giacomo, che è dedicato a questa nuova tendenza del marketing di personalizzare i prodotti, lattine di bibite, ma anche dolciumi e quant'altro. E allora si chiede dalla prima pagina della stampa, Giacomo Poretti: arriveremo al fusillo personalizzato? personalizzato, e poi declina appunto questa domanda in un articolo che non ho davvero il tempo di leggervi, ma che vi consiglio perché è davvero molto divertente. E con questo è tutto, grazie a Roberto Scaltritti che mi ha assistito in regia. Vi ricordo che sono le 7:53 minuti, tra pochissimo 54 minuti, regolate gli orologi sull'ora solare. Buona domenica da Mauro Meazza.